qualcuno qua? Sarà fino a dicembre. C'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto. Avanti, Natali. Chi è, Carlo? Via, avevo le mani occupate, prima non ti potevo rispondere. E cosa stai facendo di bello, Carlo? Stavo eliminando un'interferenza che avevo alla radio. Ah, capo. Praticamente, dove entra il cavo dell'antenna, a fianco, praticamente ci passava il filo del display della caldaietta, no, che ce l'avevo all'interno in cucina, e in effetti poi in cucina non ci faceva niente perché poi lì esposta ai vapori, troppo caldo eccetera. Allora ho trovato una scatola di protezione di quadretti elettrici, l'ho sistemata fuori in terrazzo, no, dove ho la caldaietta, e quindi il cavo l'ho sfilato e interferenza scomparsa. Stava troppo vicino al cavo dell'antenna, capito? Quindi come entrava in funzione la caldaietta, se qualcuno apriva l'acqua calda, mi saliva di colpo QRM, diciamo, da interferenza. Visto. Quindi poi come spegnevi l'acqua calda, dopo, perché c'è la ventola che ancora un po' rimane in funzione, come staccava la ventola, boom, scompariva l'interferenza. Allora ho detto già è quella. Quindi facendo quello, poi stamattina sono salito sul tetto, praticamente ho messo un'altra staffa, capito, ne avevo due e ne ho messo tre perché erano praticamente a 1,50 m una dall'altra, ne ho messo una al centro adesso, capito? Quindi praticamente è pronto, devo togliere la vecchia, diciamo, antenna, che vecchia non è, però diciamo tolgo quella e metto la nuova, capito? Appena ho un altro attimo, adesso oggi avevo un po' di tempo libero perché ero di riposo e stavo facendo queste cosettine, però non mi sono fidato a fare tutto oggi e ho detto boh, non si sapeva se pioveva o meno. Quindi come ho un altro, che ne so, una mattina di tempo libero, penso che dovrei riuscire a sostituire tutto. Ehi, a me manca solo il palo e tutto l'altro ce l'ho. Oh, il palo ne ho trovato uno giù in garage, è praticamente spessore 3 mm e 3 metri di altezza. E va benissimo per quell'antenna. E quindi ho visto che praticamente il supporto fermatubo, diciamo, delle gaffe già lo acchiappa, perché quello che attualmente c'è, la sezione più grossa, è di diametro 40, questo invece è 50, quindi allargo un pochettino, sfilo tutto il vecchio tubo e ci infilo il nuovo dall'alto, capito? È un abbastanza pesante, però una volta che è stretto lì tra quei tre bracci e le gaffe già non si muoverà più. Infatti adesso fra un po' devo uscire io, che devo accompagnare mia moglie a fare una commissione. E questo è il periodo di spese e spesucce. Io stamattina, in mezzo a tutte queste cose da fare, sono uscito anche a fare la spesa, a cambiare la serratura del portone del condominio, a fare le copie delle chiavi, insomma, sempre da oggi, cioè, avevo il giorno libero, sto sempre facendo, non mi sono fermato un attimo. E infatti io la spesa lo stesso l'ho terminata, deve fare un esame mia moglie, perché l'hanno mandata a chiamare, quindi la devo portare adesso fra un po', devo andare vicino a Alessiomi a fare questa cosa qui. Ho capito, quello è importante allora. Comunque io già sono qua in ascolto e che avevo le mani occupate, prima ho sentito la chiamata e ti ho risposto alla seconda. E ho capito, non ho un problema. L'altro te l'aveva il numero, Antonello? No, ma mi sa che il tuo numero ce l'ha anche Claudio, e già al limite me lo faccio dare da Claudio, perché con Antonello non ci siamo sentiti e né visti, capito? Perché in questi giorni avevo un po' da fare qua e là, però mi sa che se il tuo ce l'ha Claudio, già me lo faccio dare anche da Claudio. Sì, che ce l'ha. Digli di darti il numero e già non c'è problema. va bene, o Antonello, Claudio, o Roberto. Mi sa che l'altro giorno tu ci sei andato da Roberto. Sì signore, anche Roberto c'è. Sì, perché quel giorno che tu sei andato in officina da Roberto, dopo ci siamo incontrati con Claudio, infatti me lo stava dicendo Roberto, mi dice c'era Natalino poco fa, eccetera. Ho detto, allora per un attimo l'abbiamo mancato. Sì, infatti, proprio per un attimo mi avete mancato. Perché Roberto mi ha detto, Claudio forse non viene perché c'ha i muratori, non so, era impegnato, e quindi allora me ne sono andato anche per quello. Invece poi sono arrivato io, e poi dopo un po' è venuto Claudio che era in moto, stava facendo un po' di spesa, e poi la sera sono salito su, mi ha spiegato dove abitava Claudio, sono salito a casa sua, che era facile da trovare, e mi ha dato l'antenna, capito? Va bene, fatelo da Claudio allora, dai, così risolviamo. Adesso io devo andare vicino a dove abita Antonello, lì a portare la 50, così, e così speriamo che faccia in fretta. Sì, va bene Natalie, ci sentiamo, poi magari anche più tardi, tanto starò in ascolto. Ok, buon tutto a te. Grazie della chiacchieratina, ci sentiamo più tardi allora, io esco, quando rientro al limite già faccio chiamata. Ci sentiamo. Benissimo, ciao Natalie, ciao. Canale 10, avanti, CQ sul 10, Carlo in ascolto. Ah, buonasera Carlo, non avevo riconosciuto Gianfranco. E allora, come va? Gianfranco, tutto bene. Oggi giornata libera, ma piena di tante cose facendo. Praticamente avevo un'interferenza sulla radio quando si accendeva la caldaietta, che aprivi l'acqua calda e mi saliva il disturbo, diciamo tipo QRM, no? Poi quando appena si spegneva la ventola cessava, quindi era il cavo del display che praticamente passava vicino al cavo dell'antenna radio, e quindi era troppo vicino, e quindi l'ho spostato, l'ho fatto passare dall'altra parte, avevo lo spazio, e adesso ho risolto. Hai visto, a volte basta una piccola intuizione per scoprire il problema. Sì, quello della caldaia è un classico, soprattutto quando entra in funzione l'accenditore, no, poi devi fare parecchie scariche. È normale che faccia quello scherzo lì. Bisogna sempre stare accorti con i cavi, è quello che non mi smetterò mai di dire. I cavi sono importantissimi quanto l'antenna, perché trasportano il segnale, da loro dipendono tante cose. E l'antenna l'hai fissata, a proposito, quella nuova? Guarda, stamattina lo diceva Claudio che ci siamo sentiti un attimino, e stavo giusto scendendo dal tetto. Praticamente stamattina ho fisso, perché avevo due zanche a 1,50 m una dall'altra, e ne ho messo una al centro, quindi a più o meno a 75, ne ho messo un'altra, quindi adesso ce ne sono tre. E quindi ho fatto i buchi, cemento a presa rapida, eccetera, ho fissato, e diciamo come asciuga, uno di questi giorni, tempo permettendo, dovrei riuscire a togliere la vecchia antenna col vecchio tubo telescopico e mettere un tubo che ha un diametro di 50 e lo spessore di 3 mm che l'ho trovato giù in garage ed è alto 3 metri, praticamente esce circa 2 metri dal tettuccio e se io salgo sul tettuccio dovrei riuscire a fare anche le regolazioni qualora fosse necessario, capito Gianfranco? Sì, il tubo andrebbe bene come larghezza eccetera, come lunghezza 3 metri sono un po' pochini. Comunque supera le antenne TV. Sì, sì, vado oltre le antenne, perché le antenne sono molto più in basso, quindi io vado oltre. Ah, ecco, allora siamo a posto. L'importante è sempre quello. E niente, speriamo che riesci a farlo come, perché stiamo tutti combattendo col tempo, sempre, in queste previsioni che stanno scendendo, non si capisce più niente. Io adesso sono fuori, perché volevo regolare una parabola, invece ho dovuto lavorare di trappano per fare alcune cosette, quindi è da domani, sempre se si può, perché questo è un periodo terribile, non riesco a fare niente. Sì, purtroppo molte volte hai il tempo e tempo libero diciamo per fare le cose, però non ti aiuta il tempo meteorologico perché magari piove o fa freddo. Questi giorni, grazie a Dio, freddo non ne sta facendo, anche quando esce il sole si sta anche bene, perché io ero sul tetto stamattina e quell'oretta che ci ho passato a fare quel lavoretto e si stava bene. Infatti diceva Claudio che qua nelle diciamo istruzioni dell'antenna c'è scritto che per il corretto funzionamento dell'antenna è necessario l'impiego di un balloon 1.1 che può essere realizzato avvolgendo almeno 10 spire di cavo coassiale su un diametro di 10 cm. Però lui mi ha detto che secondo lui non è necessario, che lui l'aveva piazzata tranquillamente senza realizzare questo balloon e andava bene comunque, anche se il cavo misurato e ce l'ho anche per fare 10 spire diciamo su un tubo in plastica, capito? Sì, dunque probabilmente vediamo adesso che lunghezza c'hai tu di cavo, quel balloon richiesto per evitare eventuali rientri di RF. Io invece ce l'ho sotto l'antenna perché è molto utile, è un genere che non ricordo mai, lo chiamano FOC, una cosa del genere, non è altro che un sistema per impedire all'eventuale RF di rientrare su quel tipo di antenne. Tutto lì, anche se poi le stazionarie sono basse, però serve a quello scopo. Ho capito. Diciamo se riesco ad organizzarlo, perché praticamente io il cavo ho raccolto giù, però qua in cucina è tutto steso, fa due giri sopra i pensili, capito? Ho 3 metri di cucina, quindi praticamente ci sono oltre 6 metri, però lo tiro fuori e poi me lo tiro dal tetto e quello che c'ho su, tanto quando scollego l'antenna glieli faccio questi 10 giri su un tubo di plastica diciamo del diametro di 10 come mi dice qua, e poi lo fisso con le fascette, dovrebbe tenermelo fermo, poi lo metto giù alla base del palo magari vicino all'antenna dove sono attaccati diciamo il fissaggio proprio dell'antenna, lo metto là e dovrebbe andare meglio. Sì, guarda, puoi usare, lo sai che cosa? Io ho usato quei tubi arancioni per idraulica, adesso non ricordo se si utilizzano per gli scarichi o meno, che sono esattamente più o meno di 10-12 cm, quello che è. Cioè, bene, le fai due buchi, non alto, non due basso, e ci fai scorrere il filo, così lo puoi anche serrare bene. Anche ho delle fascette in modo che rimanga costante anche quando c'è un po' caldo o quando c'è un po' freddo. È un tipo di filtro, diciamo così, da. Ho capito, sì, il tubo ce l'ho già, l'ho preso, ho pagato 3 euro, praticamente un raccordo da 10 per diciamo raccordare i tubi di scarico, color grigio, c'era anche arancione ma l'ho preso grigio che da diciamo si vede meno. Sì, esatto, proprio quello. Sembra da buccarlo, dura un'eternità perché nel caldo e nel freddo sono progettati per estesi, no? Non fanno niente. Quindi cioè, è una curiosità, che cavo stai usando? Io sto usando un RG 213 della serie Messi e Paoloni, fatto in Italia, e praticamente c'è scritto C17 plus 10. Quanti metri sono? Allora sono 30 metri. Sì, allora Messi e Paoloni chiaramente è una garanzia, quindi sicuramente è un cavo ottimo, va bene per quelle frequenze, per queste frequenze da 27, non ha perdite preoccupanti, 30 metri sono tanti comunque, però rispetto a gente che esce con 58, se 4 o 5 passi avanti, quindi credo, se quello che penso, è anche molto flessibile, quindi adatto a un uso diciamo domestico, ecco. Non è diciamo tanto facile da domesticare, perché essendo parecchio grosso devi fare delicatamente, capito? Soprattutto quando c'è freddo e le curve è difficile fargliele fare, col caldo un po' si riesce a domare, però d'inverno secondo che curve devi fare è un po' fastidioso, capito? Perché è molto grosso. Comunque già è un ottimo cavo di perdite, questo mi hanno dato garanzie che ne ha pochissime, da quando l'ho messo va benissimo, capito? È giusto che avevo questo disturbo, che quando partiva l'acqua calda sentivo il disturbo in radio, come finiva di usare qualcuno l'acqua calda, come si spegneva la ventola della caldaietta, no, quella dei fumi, allora scompariva, quindi ho detto questo bisogna allontanare il cavetto che c'è sul display, no, per il display esce dalla caldaia, dalla scheda elettronica, escono due fili e sono collegati a questo display che tu te lo puoi portare anche dentro casa. Io avevo un forellino e l'avevo passato lì, e a fianco c'è l'altro foro dove passa il cavo d'antenna, quindi ho messo una scatoletta di quelle degli impianti elettrici che servono per proteggere le cose esterne, con uno sportellino che si apre e si chiude con la guarnizione, perché io il terrazzo ce l'ho semichiuso, però è nella parte diciamo chiusa, quindi per evitare che ci vada qualche schizzo, polvere eccetera, questo display piccolino l'ho attaccato là dentro ed è perfetto, così mi ho eliminato tutto il disturbo, capito? E il cavo adesso è senza nessun disturbo. Sì Carlo, poi quel cavo è anche molto molto schermato, è un cavo, ripeto, di una marca di cui ci si può fidare. Io ho la serie per altre frequenze della Messi Paoloni e ti garantisco che tanto di cappello, è un cavo che può andare anche la versione che ho io, può andare anche sottoterra, sott'acqua, perché quello progettato per ambienti ostili diciamo così, dai, quindi fanno molto molto bene, una casa italiana veramente che fa le cose in maniera molto professionale, sono molto contento di quel tipo di cavi. Sì, esatto, perfetto, io l'ho usato e posso garantire che è bello anche dentro quando fai le connessioni con gli spinotti eccetera, c'è un'ottima calza, tutto schermato bene, poi c'è anche l'altra cosa in rame, un'altra, oltre alla calza un altro rivestimento, capito? Quello è essenziale per avere un'ottima schermatura. Sì, sì, ne hanno tutti e due, non è certo come i vecchi 213, c'erano la calza, quel filo tutto che si corrodeva, e basta. Questo qua invece è doppia schermatura, c'ha diciamo la stagnola, quella dorata, e poi c'è la calza che riveste il tutto, quindi è particolarmente protetta. Sì, diciamo che piano piano mi sto organizzando anch'io la stazioncina, diciamo, di casa un po' meglio, diciamo. Quando sistemo poi quell'antenna dovrei, diciamo, uscire anche un pochettino meglio, perché è anche più lunga rispetto a questa che ho, da 5 metri e 25 circa vado a 8 metri, quindi la metto anche un pochettino più in alto, quindi alla fine dovrei andare meglio, almeno per i collegamenti in città, diciamo, questi locali, dovrei uscire anche più forte. Ma guarda, qua guardando il segnale, già come sei adesso, sei tra le stazioni più forti, se non la più forte che arriva qua. Io con te sono, benché ci siano più o meno dagli 8 ai 9 chilometri, siamo in linea ottica e il tuo segnale qua arriva intatto, quasi oltre i 9.30. Sì, ma anche Claudio e Gianfranco e Roberto mi hanno confermato che il mio segnale arriva così. Addirittura Claudio mi diceva che a lui, Claudio di Muros, gli arriva a 9.40 e io gli arrivo con lo stesso segnale suo, capito? Quindi attualmente, diciamo, va bene l'antenna che ho, cavo e tutto quanto, però diciamo dovrei migliorare ulteriormente, questo no, non guasta, ecco. No, assolutamente no, perché insomma, meglio si va e meglio è, ovviamente più soddisfazioni c'ha la radio, ecco. E poi diciamo, se c'è solo apparecchi per questa banda, diciamo, per la CB, non fai ascolto con ricevitori, quelle cose lì? No, attualmente no, non ho niente. In passato avevo qualche ricevitore, però portatile, e a volte lo collegavo, mi ricordo, a un'antenna esterna, tipo quelli discone eccetera, e riuscivo ad ascoltare qualcosa. Poi diciamo attualmente non ho niente, perché ho ripreso da poco a modulare, e quindi adesso mi interessava sistemare così la radio per la 27, questa che ho, c'ha MFM SSB, le bande laterali, e essendo omologata poi non crea disturbi. Ho provato a modulare anche col televisore acceso, e qua abbiamo insomma l'impianto centralizzato, quindi se non lo crea a me, che sono al terzo piano, neanche agli altri, non credo di disturbare nessuno qua. No, se l'impianto è fatto bene, a norme, non esiste il disturbo, ecco. È tutto in ordine, è fatto bene, no? Non ce n'è. Poi c'è anche quel cavo che è molto, molto prestante, l'antenna altrettanto, non penso che avrà di quei problemi, anche perché poi non credo che tu sei di quelli fissati con la potenza, credo che esci in maniera perfetta, quindi non c'è bisogno di tutti quei pasticci che attaccano e poi vanno anche a disturbare. O se si può evitare tutto quello è meglio, esci pulito pulito, basta farsi un buon impianto, magari spendi qualcosa in più nel cavo, nell'antenna, e penso che diciamo riesci a fare lo stesso. E poi ovviamente d'estate sfrutti di più un po' la propagazione, quindi qualche collegamento in banda laterale riesco a farlo, e diciamo come soddisfazione diciamo che a me è sufficiente. Poi più in là magari ci penserò, magari mettere qualcosa sul tetto per fare un po' di ascolto, ma non credo che ci sia così tanto, a parte radioamatori eccetera, poca roba credo che si riesca ad ascoltare. Sì, vabbè, non penso che ti interessi ascoltare quelli quelli che sono lì, che fanno il suo lavoro, perché li ascolterai tutti i giorni anche troppo, e idem anche per gli aerei, ma gli aerei già da, possono essere interessanti, così almeno sai quando arrivano, quando partono. Ma con quanti watt stai uscendo? Esattamente 2 watt. Minchia cazzo, ti avevo 7, io no, ma ogni volta che scendo a te me deve scendere una 5 per cazzo, brutto. Mamma mia come sto cazzo, usala questa radio, usala, dalle potenza cazzo, 2 watt, mezzo watt, 50 mille watt, ogni volta mi fai scendere un colpo cazzo. Infatti è fatta apposta, quindi vedi che funziona bene. Ascolta, ma io stavo aspettando stamane, meno male non mi ha chiamato, perché tanto mi hanno chiamato gli altri, quindi già alle 11 sono dovuto uscire di corsa e andare di lì, in quel posto che sai. Vabbè, pazienza bisogna avere. Poi una cosa me la sono scordato, quindi per quella cosa, boh, vedi te, tra poco siamo anche a Natale, per di più. E non c'è problema, e anche fretta c'è, quando si potrà fare si fa. Dai, ciao anche a Carlo, buonasera, io sto lavorando su una cosa e vi ascolto, se mai entro dopo, che mi hai fatto prendere una 5 per cazzo. Meno male mi sono accorto del segnale di Carlo, giusto, se no pensavo che si fosse rotta la radio. Va bene Carlo, riprendi, dai, rimango un attimo in quel X e poi riprendo subito, ok? Claudio, buonasera. Sì, mi due facendo 4 chiacchiere con Gianfranco. Niente, comunque io vi consiglio di non uscire e andare a Predanieda, perché lì c'è l'autoscontro in questi giorni, rotatorie sempre intasate, con piccoli incidenti, vigili, mamma mia. Spero di non metterci più piede, almeno se non dopo le feste. Ah, guarda Carlo, che io quando vado di lì per necessità, c'ero ieri, ci vado a orari perché ho l'apertura, ad esempio di Bricco, vado alle 7, perché se no è perduto, ti conviene rimanere a casa. Mi faccio velocemente quello che devo fare e poi me ne scappo, perché anche a quell'ora è pieno di matti, ma anche dove stamane mi hanno detto che c'è una situazione veramente, è peggio, stiamo diventando peggio di Napoli qua, una cosa, un disordine, gente, secondo me c'è molta, ma molta gente veramente che si fa la mattina presto, se no è impossibile un comportamento così folle. C'è gente che non rispetta le stop, ma ti vede arrivare ed esce, quasi che voglia fare un incidente. Sono cose, veramente che per chi ha guidato tanti anni, dovendo totalmente rispettare tutte le regole, fanno paura, fanno veramente paura. Tu puoi dire, bene, ieri sono dovuto uscire per andare a comprare una stufetta per portarla a mia suocera, perché quella che ha non sta funzionando bene. Allora con mia moglie siamo usciti intorno alle 6, ma era una cosa, uno addirittura in rotatoria me ne stava venendo sopra, ma di un soffio non mi ha beccato, non rispettano le rotatorie. Se vedi che io sono già entrato e sto girando e ho la freccia che devo girare ancora, cosa diavolo ti fermi? Hai lo stop, ti devi fermare e dare precedenza. No, sono tutti curabesse, tutti andando, tornando, mamma mia. Infatti ho detto, io non esco più. Fortunatamente qua vicino a casa mia ho tutto, e anche io esco molto presto e ci vado in orari dove non c'è la grande ressa, perché proprio se una cosa che odio è quando c'è tutta questa ressa, che non puoi neanche camminare, che rischi anche l'incidente, perché a tutti viene la fretta, tutti vogliono rientrare, una cosa, in questo periodo è una cosa proprio, hai detto bene, sta diventando tipo Napoli. Sì, guarda, ha fatto il segno alla croce, una volta che ti siedi in macchina oramai, Eh no, le basta, perché tutti i giorni, in certi punti dove è quasi impossibile fare un incidente, vedi macchine capottate, ma quanto stanno andando questa gente? È una follia, proprio un'assoluta e totale follia. Quindi capisce, bravo veramente. E così, vabbè, dai, quindi sta aspettando Babbo Natale che venga, che lui tanto non c'ha la paura dei vertici, che ti piazzi la stanzenna, e così almeno si è a posto. Comunque, a proposito, a me mi arrivi di Santiago 9+30 qua, 9+30. Claudio prima, quando è entrato, era a fondo scala, ancora di più, però tu mi arrivi 9+30, se stai uscendo con pochi watt, va bene, qua arrivi benissimo. Sì, ma Claudio lo dice perché mi vuole portare sulla cattiva strada, capito? Ma io so benissimo come arrivo a Mavedrone, io sono, penso, tra i pochissimi che anni che si prende la mania di fare telemetria, figurati che so perfettamente tutti i punti della strada dove lui, in cui arrivo e in cui il segnale si abbassa, quasi chilometro per chilometro, perché sono già 3 anni che faccio questa specie di misurazione di telemetria, perché ho gli apparati che vanno in ottica, no? Quasi in linea ottica, in banda superiore a quelle VHF, quindi in UHF, e mi accorgo con precisione, perché me lo dicono le radio, che livelli di campo ci sono. E devo dire che questa zona in cui sono è veramente eccellente per la radio, figurati che da qua sento anche ogni tanto qualcuno che modula da Olbia. E poi, facendo anche i calcoli che si fanno in questi casi, si scopre anche come mai e il perché questo succede, nonostante non sia altissimo, perché sono in una zona, credo sia a 150 metri sul livello del mare, più o meno. L'unica pecca che ho è proprio verso il mare, che c'è Monte Oro in mezzo ai piedi, ecco, ma mi hanno detto che tra poco lo segano, e quindi nessuno avrà la televisione, pazienza, però almeno io vedrò il mare. È molto difficile, sarà, Gianfra. Sì. Niente, vuol dire che la zona dove sei è comunque è abbastanza aperta, e a parte qualche inconveniente tipo quello di Monte Oro, da lì già esci bene comunque. Diciamo, la zona è buona, dai. Sì, Carlo, guarda, tutte le misurazioni per una questione soprattutto di praticità, io le faccio sempre con portatile, col gommino. Quindi vado, misuro, controllo il report che fa la radio e poi proseguo. Tanto sono operazioni velocissime, perché le fa, con le radio fanno quelle cose proprio perché sono progettate anche per fare quello. Telemetria praticamente. Il mio vantaggio è che riesco ad avere visibilità esattamente, proprio per essere precisi, da Predanietta, dalla zona di Predanietta, parlo di visibilità totale, che se ti metti il binocolo vedi anche la macchina, tutta la 131, oltre le gallerie, quelle le posso anche guardare, le gallerie ce l'ho a vista. Andando verso l'alto, ovviamente Usilo, tutte quelle zone lì, tutte le montagne di Sinnoli, le montagne di Cloaghe, dove c'è Saccargia, eccetera, fino ai tiri, praticamente fino ai ripetitori di tiri. Poi se vado un po' più dietro sono coperto da un rialzo che sta qua un pochino, ma insomma sono sono parecchi gradi di espansione, tutta la città non ho problemi. Ho capito, sì sì, anche io qua non me la passo male. Dal terzo piano non vedo niente di quello che hai detto tu, però se salgo sul tetto, allora sì, da lì vedo tutto, tutto quello che hai detto tu, e anche io, diciamo, la visuale verso, diciamo, Ossi, Tissi, tutta quella zona di Scala di Giocca, infatti vedo tutti quei costoni bianchi di calcare, là dietro poi c'è la 131, dal terrazzo vedo tantissimo, si vede l'Asinara, si vede tutta la zona, sono al di sopra Monte Oro io diciamo la zona dove sono io è abbastanza alta qua, quindi dalla dove ho sistemato l'antenna è perfetto, poi non ho palazzi vicino, quelli che ci sono più bassi, e addirittura ho la palazzina della Telecom con tutti quei ponti ripetitori che hanno, quelle torrette eccetera, e io vado oltre quelle cose lì, quindi. Una curiosità, se al posto di guardare da avanti, quindi verso Alghero, guardi in faccia alle spalle, cosa vedi? Sempre dal tetto. La parte opposta di Alghero, se mi giro vedo la zona di Ciosilo dietro. Quindi c'hai Ciosilo. E sei totalmente coperto per ulteriori visibilità, che ne so, verso Nuvi, quale zona è lì? Sì, lì, perché poi c'è il monte sopra, no, però è tutta quella zona la vedo, da Ciosilo sino ad Ciosilo, poi dopo Ciosilo no, non riesco a vedere niente, salvo che non ci arrivino le onde radio là. Dipende molto dalla frequenza, dipende dal fatto se ci sono meno riflessioni, insomma, anche di lì bisogna fare quell'operazione, io l'ho fatta per Nuvi ad esempio, esattamente prima dell'ingresso di Nuvi, che tu sai che l'ingresso di Nuvi è tutto coperto perlomeno dalla strada, perché ovviamente a me interessa dal punto di vista stradale, da Nuvi sempre in UHF riesco ad arrivare. Quindi tieni presente che se arrivi in VHF, vai in UHF, in VHF arriverai molto meglio, perché è più, è diciamo meno ottica dell'UHF. All'ingresso del paese è proprio zona d'ombra totale, no? non c'è niente da fare. Poi man mano che risali, allora il segnale ritorna sempre basso, però ritorna. Insomma, anche quello è un hobby, fare tutte queste strane misure, perché ti dà l'idea un po' anche di come stanno andando le antenne. Ho capito benissimo, Gianfra. Comunque, da qua, da questa zona, tempo fa, che avevo ancora un vecchio, diciamo, portatile per fare l'ascolto, sentivo tranquillamente da dentro casa i ripetitori, quelli radioamatoriali in VHF, mi sa, ed era Monterasu, perché c'era la vocina che ogni tanto diciamo diceva Monterasu R0, non mi ricordo, e poi sentivo anche Oristano, il ponte di Oristano, proprio da dentro casa, dal terzo piano, mettendo in scansione andava in VHF, sentivo quelli su parlavano dal centro Italia, dal nord Italia, però non mi ricordo neanche quei ripetitori in UHF, comunque sentivo tutto da dentro casa con l'antennino in gomma. Sì, perché ho permesso un attimino, perché c'ho una chiamata in VHF, solo che mi ha trovato un momento di handicap, perché sto facendo una programmazione e le radio erano staccate, Un attimino che passo e do la risposta. Un problema Gianfra, se devi staccare vai pure, tanto anch'io ho tante cosette da fare qua. Nel caso sono in ascolto e ci sentiamo più tardi. Se non dovessimo sentirci, grazie delle QSO, a più tardi. Sì Carlo, ci sentiamo dopo allora. Allora, vabbè, sono qua Carlo, sto facendo alcune cosette da. Va bene Claudio, già ci sentiamo tra un attimo, anch'io sto sbrigando qualche cosina e come mi libero poi già faccio chiamata al limite. Va bene, dai, ci sentiamo dopo allora. Sei disponibile poi per un test che devo fare una prova sull'altro apparato che ho riconfigurato. Test da che? Perché se ti riferisci ai portatili sono tutte e due scariche, completamente scariche. Vabbè, troviamo una soluzione. Però comunque in V1 puoi andare tranquillamente, col fisso. In V1 sì, non c'è problema. Senza allargarti molto, sai che è la radio che ho, quindi ancora è tutto in precariato, però qualche prova la possiamo fare. Sì, va bene, rimaniamo all'ascolto qua, allora dai, dunque che finisco alcune configurazioni, vediamo un po'. No, vai al canale 20, cioè il monitor nostro per le prove, il canale 20, qua non voglio rompere le palle a nessuno, ok, il canale 20. Ok, 20 channel. Hola, special dish. Mi senti? Vai da Roma, come va? 1, 2, 3, prova, cambio. Una bomba, Come ti arrivo io? Ho già di radio. Bene, tu. Ma è che è normale, ce lo sai. No, ma arriva bene, perché tu hai la voce grossa. E segnale, sempre ultimo. Sì, vabbè, questo qui come segnale non dà più di 9. È quello che il Rosmitter non è molto... non è molto generoso, là. È un po' rimimbro come Smitter, però per il resto va bene. Bene, scappa. Già andrà bene allora, dai. C'è una voce che è un po' grossa, gà. Allora, ma niente, grippa. Scappa, là. No, già va bene, ma un bel apparecchio, là. Ebbè. Sì, ma picchi positivi. E io quando ti arrivo con lì. Vieni avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quello è quasi fatto scala. Ah, non dico positivo, no, giga. Ora. No, a me mi sta arrivando la verità con picchi negativi. No, qua sono positivi. Ora. sì, sono le smette indietro. Sì, invece a me lo smette va quasi a fotoscala quando ho picchi positivi. E questo più e più. Avanti, chi chiama? Mi sembra che c'è Franco Califuda che lo stava vedendo, ma è modificato, non vende come quello modificato. Ma ti devi far sentire perché la radio è molto bassa, non so dove tu sia, ma ti ascolto basso basso. Santiago 1 qua. No, qua Santiago è alto, però la radio è bassa. No, qua Santiago 1, sono sento. Vabbè io, dipende che zona è lui, perché a me portatore c'è proprio quasi negativo, eh. Non riesco a ascoltarti di radio, non riesco a ascoltarti. Che zona è già? Non lo so, dove ti trovi, amico? Non capisco. Al terzo tetine, così basso di radio, come mai? Capita. Come sei così basso di radio? In camion? Stazionarie. No, sei bassissimo di radio. Di radio sei basso, basso, basso. Se c'è un po' di corrente ti copre, non riesco a capire. E a me è negativo quella zona. Aspetta, Mario di stampa. Non riesco a capirti, dai, mi dispiace, ma non riesco a capirti di radio. Fai qualcosa, attacca qualcosa, se ce l'hai, non lo so, non riesco a capirti di radio. Troppo basso. Ah, qua il segnale è 8, però la radio è proprio, non si sente. Si sente mormorare, ma a volte qualche parola si riesce a percepire, ma è difficile, capite? C'è corrente. No, io sono in zona negativa proprio, non ho mai sentito le... Come Alghero stesso, Alghero, Forotose, ho lì nei pizzini tutta, zero, sto coperto. Altre zone sì. Io ho la sua zona positiva, capito? Io invece per il mare sono positivo. Ehi, tu c'ho ben alto, io sono qua in collinetta, però giustamente a Sassa arriva forte che sono di fronte, capito? Arriva anche bene qualche persona, non voglio fare l'ombre a chi non me la può tenuta, qualche guaio. E io comunque... Io per il mare sono positivo, anche Alghero, arrivo a Santiago 8, no? E io Alghero sono più proprio. Niente, produttore c'è 3-4 segnale. Io a quanto noi arrivo a Santiago 8. Sa, se in periferia arrivo bene, vabbè, e andare a pensare, dai. Quando cambierò casa vuol dire che poi sarò il numero uno con 2000 battuti. Ma qui bisogna vedere adesso con la Mantova, e tu con la Mantova non lo sai come arrivi. Poi non lo so. Tu prima hai virato l'antenna, ma la Mantova è un'altra antenna, La Mantova la schicchia forte. E poi l'ho messa anche più in alto, è spostata. Vabbè, la stazionaria come va? 1-1. Ah, va bene allora, va. Meglio di così si muore. E sotto dove attacca i radiali lì, quello lì buono era, perché solitamente si rovinano lì. No, allora dove attacca i radiali erano incasinati, infatti ho dovuto fare. Ho comprato la filiera e ho fatto il filetto nuovo, ho fatto. Ah, ci ha messo, l'ho fatto il filetto, ho capito. Ma vabbè, come sono la vite quelli lì? No, sono in cazzo, c'è le cose in rame, il rame non c'era più, era bagnato, che se lo sarei fatto, boh. Comunque io dopo che sono riuscito a bloccare i radiali gli ho messo anche un micro ponente e gliel'ho quasi saldato, diciamo. Ah, ecco, e vabbè, già va bene allora. Venga. Niente, mi mancava l'appello, la filiera, adesso ce lo posso fare maschio e femmina il filetto. Oia, sempre con un paio di abiti. Eia, a mio figlio è uscito a me, quando papà poi non ha più gana, si mi dice tutto giù, e mi ha detto, mi paghi non dire, mi paghi. E mi figlio la buco, sempre comprando, sai. vabbè. Magari poi ti servono gli attrezzi che ce li hai quando ti servono. Quando ho fatto cosa ho comprato anche la cariola a me. Quindi, per farmi l'impasto. E la mozza cagliarella. Niente, poi il decimilatore che è ancora scatolato, saldatrice che è ancora scatolata. Cioè, mi pare che non compare giù più nulla, c'ho tutto. E carica batterie ce l'hai? No, cosa mi devo caricare? La video la sto vendendo, mi carica batterie, ho una gattata a goccia, per caricare la batteria della macchina. Ma quelle, ma a me, ma con i farata, ma nel mozzo, poi arrivato al negozio mi compro la macchina nuova, ma... Eh, vabbè, ma se magari non ti muovi in moto, gli attacchi il caricabatterie e funziona. Ma il booster stai dicendo tu? No, caricabatterie, il booster è un'altra cosa. Caricabatterie, se ti si scarica la batteria la metti in carica e poi la metti. Sì, invece io avevo il booster, ne ho avuto due, poi non lo usavo quasi mai. Se è praticato, se la ce l'ha fatto. Booster, abbia luci. Io quando è la batteria va male, andiamo a comprare giù qua. Sì, come sopra, anche io ne ho avuto due, tutti e due non li usiamo quasi mai, e la batteria è partita così senza usarli, quindi altrettanto ti dico, ne ho buttato la mondetta. Io per cambiare la batteria a comprare la nuova, invece non sta, e sono sigillati, allora va a pancina. Avanti, chi è? Ci butta la batteria, vero? Vabbè, hanno parlato sopra, non ti ho capito, avanti di nuovo. E ci butti la batteria, vero? Qui, c'è un attimino che stanno parlando. Avanti la Vicco. Sì, lo sento anch'io. Avanti la Vicco. Avanti, chi ha detto, mi senti meglio? Boh, vabbè, avanti, qui siamo la sera. Buonasera a tutti, ragazzi. Cazzalocco ha pigliato un burrato. Che due impari, bastardo. Cosa buonanotte? A me mi senti? A me non mi senti. Attenzione, l'amico che ha detto buonanotte, avanti. Negativo là. Dai, io sono doppio rullo, tu chi sei? No, perché li stanno andando la ridere, capito? Li stanno muti a poco presto, non è Tattorino, mi ha detto che non interessa. Ciao Mario, mi sentite? Doppio rullo da questa parte. Mario, mi senti a me? 1, 2, 3, prova. No, mi sente. Mario, lo senti a Torino? No, sono già negativa, dai. Santiago 1 e Radio 2, comunque ti ascolto meglio di prima. A me come mi ascolti, Mario? Va. Lì non è quello di prima, questo è Porto Torres, prima era il terzo tripine. Avanti Cristian. E io sono negativo per Porto Torres, comunque, te l'ho detto. Ma magari in macchina, Mario, ma in macchina sì. No, ecco perché allora. Ho capito, dai, ma no, qua sta arrivando con lo Santiago di 6-7, dai. Sta arrivando abbastanza bene. Scappa Mario, dai. E se vuoi rimanere, rimane, non c'è problema. Ti faccio la ponte io. Comunque, quando puoi, vedi, ti un'antenna diciamo migliore, magari riesce a copiare tutti, dai, se ci fa piacere, se si ingrandisce questa frequenza che un po' stava morendo. Ciao Mario, ci sentiamo, dai, è stato un piacere, avanti tu lì. Capo, saluto da parte mia Mario, io già lo sento abbastanza bene, pazienza, ok, ciao Mario, buon saluto e buon corretti, ci sentiamo, metti il tutto così ci sentiamo anche meglio. Mario, contatto Torino, ti ha salutato. Sì, che lo sento io. Papa, lui ti sente, sei tu che non senti a lui. Lui ti sente a te. Ok Mario, dai. Rimedia il tutto con l'antenna. So che c'hai il QRM alto, ma che ti vuoi dire? Metti l'antenna come si deve. Così almeno ci sentiamo alla prossima. D'accordo, buon corretti, ci sentiamo avanti già. Ehi, c'era anche Cristian a casa. Prima stava parlando sempre agli altri, adesso che lo chiamano me. Cristian, hai di nuovo alzato l'ecco, hai. Hai alzato troppo l'ecco, non si capisce nulla. Adesso va meglio, sì. Amico del portatore già ha fatto QRT, dai, era Mario comunque. C'è Torino, avanti. Ciao Cristian, mi copi? Sì, basso, dai, tu ti copi, dai. Mi sono un po' meglio, mi assurdi? Sì, basso, il segnale si è andato a buono. Sto usando un mic normale, che zona sei? Via Pascoli. Addirittura ti arrivo, ma il segnale è forte mio. Sì, c'è 9.30 per la teleregiva. La radio è bassa che c'è un microfono proprio, un microfono da terra. Buono, allora arriva forte il radio. Allora arriva abbastanza forte qui, se forse tu perché sei in macchina. Il microfono da terra proprio, è vero. Ehi, di quelli fasullini proprio, andanti. È un baracchino normale, dai. Allora c'è un baracchino omologato, 40 canali, esce 4 fatto, ma la pena. Comunque, c'ho lo smith della mano io, perché mi sembra strano, perché qui si arriva a basso, prese via Pascoli, dovrebbe arrivarmi almeno 9.20. E in macchina, Vito? E in macchina, quando c'era pure un uragano che arrivava, era in via Pascoli, mi arrivava sui 9.20. Dipende dall'apparecchio che stai usando. Sì, secondo me se c'è un apparecchio di quelli a 13. Allora, tipo il mio, dai. È un apparecchio di 13, il mio, sono un Alan e basta. Sta scherzando, Cristi. Non so la cosa ripeta, perché c'è anche il microfono amplificato, Cristi. Ma sento un bel gruppo, Cristi, proprio te l'avevo regolato bene ieri, cazzo, senti va così bene, adesso sono sempre di nuovo. Dimmi come sono le regolazioni, metti che ti tendi a 3, tra 2 e 3, dai. Adesso com'è? Come fai il passaggio lungo? Adesso meglio fa. 2, 3, là. Va meglio, ma non parlare troppo con la bocca attaccata, se no sembri che ci abbia la patata in bocca. No, ce l'ho attaccato il microfono, c'è sullo stretto. Non so che dirti, vabbè, là. Già va bene lo stesso. Vabbè, adesso com'è? È sempre un po' occupazioni, come la senti la rana? Provi, avanti. Così come ho detto tu ieri, guarda, adesso... Ah, io già lo sento bene. Vabbè. No, io non lo sento bene. Lo sento poco. Voglio provare già il baracchino che ha chiamato mio zio, quello che vedi tre canali. Questo ha 43 anni, Goltec. Lo conosci? Goltec? No, con la K finale. Inizia con la K e finisce con la K. Goltec. 23. No, usando quello. No, lo voglio attaccare adesso. Con il mid la da vedere. Prova a vedere, là. Beh, stai mai un attimo che sta con l'antenna. Ma sta girellando qui. Dai, in giro, fa un po' di buco. Ciao, casteggiamo, dai. Io non ho neanche voglia di andare in centro, sono già da un po' che non vado in centro, dai. Volevo andare a vedermi le luminarie. E mai quando fanno un giro, domani vado e vado a vedere un po' tutto, perché ancora non sono andato al centro. Non c'è la macchina, c'è quello qua, è fatta la piedi, Cosa? Non c'è la macchina, c'è quello qua, è fatta la piedi. Ah. Perché c'è un macello al centro, non per altro. Ah. Ah. Io gli amici non si arruggiavi tu. Fate da bravi, uno con la portante, se non parlate più. Tu li fa facile attaccare sta parita. Antonino. Posso il PL. Come mi senti già? Lui. Puoi disegnare, che non si è prendo la tua. Guarda, la mia più di roba non arriva. È rimindo questo svizzero. Sono vicino a casa di cosa? Di Lucchetto. Di chi? Di Luca. Ah, di Luca. Gianni? Sì, Dico, sto provando il Contec. Vabbè, 1, 2, 3, prova. Andiamo bene, Tonino. Sono di un po' bassa, c'è, ma non è che sia... Prova a farla, la rata. Scusa, il suo microfono normale anche questo. Ma chi che non è? No, è proprio quello, volume squelcero basso. Oh, adesso poi la squelcero, certo. E già sta andando, fa lo scaldare. Magari si riprende bene. La voce, diciamo, la radio è un po' bassina. Luca, avanti, ci vuoi entrare? Io lo sento bene, poi. Cosa? Io sono abbastanza bene. E questo è un baracchino che ha 43 anni, praticamente. Io invece lì ce lo vedi. È la mia età quasi, dai. Cosa? Detto già. No, scusa, Vittorio, avevo il volume basso io. Si sente bene, benissimo. Ha uno speaker addirittura verticale. La radio è bellissima. La radio è bella, perfetta. Peccato che l'SMI non funziona, cavolo, 69 canali, quello stesso avrà 35-36 anni. Non funziona, l'USSB. Con l'antenna sua non l'ho mai provato, con l'antenna grande, boh, provato con l'antennino, provato, varrà tutta, proprio... Ma non si accende? Sì, accende, però se un piccolo rumore guarrebbe, boh, vabbè che loro hanno detto che funzionava, l'ha spento e l'ha messo nel comune, e poi non l'ha più toccato, non l'ha messo. E allora dovrebbe andare. Magari c'ha lo squelch abbassato, controlla questo. Tutto controllato. Faccia LOPHE canali. C'ha 40, 23 sotto, 23 normale, 23 sopra, capite? E per lì non che cosa? Antisurbo, CPPA, OF, NL, DIS, locale, distante, eccetera. Cos'è il canale? Orbito orizzontale. Ma benissimo, però devo cambiare la lampadina perché sono spente, non funziona. Fallo vedere a qualcuno, magari ce lo metta. Io non conoscevo un tecnico. Le persone che lo sanno fare, giustamente. Ah beh, certo. Ma io non conoscevo un tecnico. Stavo parlando di apparato di apparecchi in radio, CB. Io lo conoscevo, infatti. E chi è? Diciamo che mi ha fatto...